Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Non sono d'accordo, soprattutto perché secondo me le curvi dovrebbero gareggiare con le altre curvi. Quindi tanta polemica. Ovviamente. Guarda, poi ci sono. Ora le faccio litigare perché mi sono messa proprio in mezzo. Scusi signora, posso dissentire da questa cosa? Perché, mi perdoni, ma veramente ci abbiamo messo anni per fare in modo che la bellezza non abbia canoni. Adesso che finalmente ce l'abbiamo fatta, dobbiamo mettere la retromarcia, Franzi, e tornare indietro. Francesco, però, ovviamente c'è anche chi è scontento per altri motivi. Sì, voglio aggiungere una cosa. Colgo la palla al balzo. Non so quante delle donne che sono in ascolto in questo momento hanno poi seguito Miss Italia, ormai è diventato qualcosa di residuale, anche se sulla Setta ha fatto un discreto ascolto. Però questa mattina chiedo l'aiuto proprio delle signore che mi ascoltano, perché sono solo in questa trasmissione e voglio il vostro illuminato parere su una questione che sembra che in questo momento sia fondamentale. Cosa è accaduto di nuovo a Miss Italia? È accaduto che le ragazze piuttosto formose hanno avuto il privilegio di sfilare anche loro a Miss Italia. Hanno fatto una selezione tra le cicciottelle, chiamiamole così, anche perché il termine, come avete sentito, curvi, che in realtà si dovrebbe pronunciare curvy, però dicono tutti curvi, e curvi rimarrà per tutti noi, è qualcosa che rappresenta un'idea molto incerta di quello che è la donna formosa. Sì, è arrivata seconda una bella ragazza napoletana, Paola Torrente, taglia 46, quinta di seno, però anche su questa forma di bellezza fuori dal canone estetico che sembrava imperante in tutte le Miss Italia, cioè delle ragazze magrissime, al limite a volte dell'anoressia, aspiranti modelle, c'è qualcosa che non convince il mondo. Cos'è che non convince? Non convince il fatto che sia stata creata una categoria, come ci fossero i pesi massimi, i pesi piuma, i pesi medi, via dicendo, anche nella sorta di desiderio di ridare ancora una patina di attualità, qualcosa di vecchio ammuffito, di preistorico, come il concorso di Miss Italia. Miss Italia cosa dovrebbe essere? Il concorso che definisce quello che è la media estetica ricorrente nel nostro paese. Vuol dire che allora, se così fosse, tutti gli italiani dovrebbero essere chiamati a votare, dovrebbe esserci una sorta di plebiscito, una votazione, tutti votano la donna che preferiscono. Se è soggettivo il criterio di bellezza, come dice Facchinetti, non c'è un canone estetico fisso, benissimo, allora potrebbe concorrere al concorso di bellezza qualsiasi mia collega, mia amica, mia conoscente, persona che incontro per strada. Allora non è che le categorie sono due, o magre o grassottelle, no, devono essere infinite. Mi diceva questa mattina una collega, dice: ma io sono curvi dalla vita in giù, ma sopra non c'ho seno, anch'io sono una categoria, quindi dovrebbe esserci una terza categoria di quelle col sedere abbondante con poco seno. Ma ci sono anche quelle che hanno esattamente il contrario, le tettone in realtà con i fianchi stretti, anche loro dovrebbero poter partecipare. E allora quelle con il naso importante, allora anche le nasone, quelle con l'orecchia sventola, ne abbiamo esempi illuminati, anche quelle lì, le caviglione. Ci sono uomini che gli piacciono le donne con le caviglie importanti, altri che vogliono le caviglie affusolate, quindi caviglione e caviglie affusolate, altra categoria. Oggi vogliamo fare una provocazione, vi darò i punti di vista contrastanti che vengono proprio da donne che oggi hanno scritto due editoriali in due giornali contrapposti del giudizio, ma vorrei che ciascuno di voi si proponesse come una categoria, visto che Facchinetti è così avanti nel pensiero illuminato, nel politicamente corretto, dice finalmente abbiamo sfondato una barriera, sfondiamola veramente questa barriera, diciamo quali sono le categorie che dovrebbero partecipare a Miss Italia. Chiunque di voi può dirmi: io appartengo alla categoria delle ricce lisciate, appartengo alla categoria delle lisce arricciate, oppure appartengo alla categoria di quelle con il collo fino, appartengo alla categoria di quelle con il doppio mento, appartengo alla categoria di quelle con gli occhi strabici. Voglio che ogni donna che mi ascolta in questo momento si autoproclami come portatrice di un messaggio di categoria di donne, perché la prossima Miss Italia, veramente, come dice Facchinetti, sarà quella in cui tutte le donne si sentiranno rappresentate. A tra poco, 80024 0024. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Oggi affrontiamo un periglioso tema che riusciremo a sviscerare in maniera esaustiva e interessante come campionatura dei modi di pensare del nostro paese, se le ascoltatrici mi supporteranno chiamando all'800 24 00 24. Torno al tema. Il tema è Miss Italia. Miss Italia non ha più la sua centralità televisiva come l'aveva ai tempi di Frizio, ai tempi di Pippo Baudo. Comunque è stato un dignitoso programma che ha fatto un dignitoso ascolto nella Sette. Poco a che fare in realtà con tutta l'idea di televisione della Sette, però comunque è stato tutto sommato un televisivamente un buon affare averla fatta. In questa Miss Italia la novità, visto che di nuovo non c'è assolutamente niente, sono 70 anni che c'è Miss Italia, qualcosa del genere, capito? È stato introdotto il fatto che c'era una categoria di ragazze dette curvy, cioè curvi, come si dice, come hanno tutti detto durante Miss Italia, che hanno quelle, diciamo, non nelle misure fisiche che normalmente eravamo viste rappresentate nelle Miss Italia. Queste ragazze hanno fatto la loro selezione e poi alla fine sono arrivate a una finale in cui, diciamo, la palma di Miss Italia se la giocavano due ragazze. L'una che poteva essere accusata di essere una portatrice del pensiero toscan-renziano, perché era ex Miss Toscana, e l'altra era portatrice del pensiero politicamente correttissimo, con una bella ragazzona napoletana, alta 1,80 m, quinta di taglia di seno, taglia 46. Su questo si è diviso il pensiero sia delle donne che degli uomini. Le donne soprattutto oggi sono uscite due giornaliste con due editoriali, dicevo, su due giornali contrapposti, Maria Corbi sulla Stampa e Annalisa Chirico sul Giornale, dicono due cose opposte dal punto di vista delle donne. Per Maria Corbi la rivincita della bellezza formosa, quindi considera un passo avanti importante nel fatto che molte donne, stufe di essere madri, mogli, amanti, figlie in carriera, anche filiformi, possono finalmente sentirsi a pieno diritto di far parte di quello che è il modello di bellezza nazionale. Finora una donna doveva sentirsi in colpa se non era perfettamente allineata con quei canoni di magrezza, di asciuttezza, di essere filiformi asciutte senza nemmeno l'ombra di qualcosa in più oltre la tensione muscolare. Oggi possono loro a tutto diritto dire siamo rappresentate da qualcuno. Al contrario, Annalisa Chirico fa la bastiana contraria, dice che vergogna la quota cicciottella Miss Italia, come se bisognasse pagare una sorta di debito culturale alle donne in forma, e quindi hanno messo questa bellezza abbondante che lei dice che è orgogliosamente taglia 46, compressa in un improbabile body inguinale che è sgradevole agli occhi. Ci dispiace deludere mister Facchinetti, ma metterebbe sua sorella con quel body addosso. Lei dice sì, questa è abbondante, ma c'aveva una sorta di costumino aderente di quelli che vendono nei negozi di sanitaria e ortopedia, che stringe, gli fa un vitino alla vespa, la contiene, ma quello che viene sotto è di tutt'altra forma. E quindi dice questo serve soltanto a rilanciare un modello commerciale, visto probabilmente non va più la bellezza longilinea e filiforme, si sta cominciando a rimpostare un modello commerciale. Voi come la pensate? Paola, buongiorno. Paola è caduta. Egidio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sì. Senta, mi sono permesso di disturbare la trasmissione. Sì, non chiamare solo donne, però dica la sua, benissimo. Ecco, la mia è questa. Donne magre e donne grasse. La donna deve essere mediterranea, perché quando arriva il momento, e il momento arriva, dove ti acchiappi? A quattr'ossa? Punto interrogativo. Beh, però Egidio, lei si rende conto, sta dicendo uno di quei luoghi comuni più tristi, capito? A noi ci piace la donna in carne, donna senza mulo, alpino senza culo, cioè donna senza culo, alpino senza mulo, cioè bisogna avere la sostanza. Ci sono anche donne che non hanno sostanza, sono donne altrettanto piacevoli. Non è che si misura, secondo me, con la bilancia, la donna deve essere. La donna è come è, può piacere o non piacere, uno, visto che il mondo è bello e vario, sceglie il tipo umano che più, col quale si trova più in sintonia. È altrettanto luogo comune se dicessimo facciamo Miss Italia soltanto con un modello di donna che piaccia agli uomini, quindi abbondante, con sostanza, con roba, diciamo tutto il bagaglio di possibili luoghi comuni e di stereotipi, ma non è esattamente così. È che è un'operazione che vuole essere apparentemente un'operazione d'avanguardia, vuole dare spazio a tutte, ma in realtà non dà spazio a tutte. Mostra una ragazza molto bella, che comunque è una modella, che comunque è una che ha una sua particolare attenzione estetica, che è di taglia più abbondante rispetto alla media delle Miss Italia. Non è che da oggi tutte le donne abbondanti sentono rappresentate da questa donna, perché è tutt'altra cosa. Una donna abbondante non è esattamente fatta così. Ha una donna che ha qualcosa che viene considerato, secondo letture estetiche banali e correnti, difetti. Io chiedo alle donne oggi, non tanto agli uomini, stanno chiamando numerosi, mi dite quale, in nome di quello che considerate un difetto, il mondo considera un difetto, del quale vi sentite limitate, qual è la categoria di donne che vorreste che partecipasse comunque a Miss Italia? Claudio, altro uomo. Pronto? Sì, visto che le donne non chiamano, sentiamo gli uomini, benissimo. Spero che le donne si facciano vive, perché è importante. La prossima Miss Italia verrà considerata la Miss Italia all'avanguardia, perché ci sarà stato questo passaggio culturale avanti. Ma siete convinti che comunque sia un passaggio culturale, creare la passerella in cui comunque devono sfilare, non farsi vedere, deve essere misurate, ponderate e rappresentare qualcosa che in realtà non è rappresentativo? Ripeto, se fosse una Miss Italia rappresentativa, dovrebbero essere rappresentate tutte le categorie di donne. Quindi questa mattina vorrei capire quali sono le categorie di donne. 800240024. Claudio, vediamo se riusciamo noi intanto a aiutarci tra uomini per capire come deve essere. L'ascolto. Claudio? Sì, mi dica, ma cos'è sta roba? Io non so niente. Beh, lei mi ha chiamato. Quindi... Io non ho chiamato nessuno. Claudio, ciao Claudio che ha chiamato, benissimo, Claudio ha chiamato, ma si è pentito di essere chiamato. Diceva il messaggio sintetizzato dalla nostra collega ai telefoni: donne lobotomizzate, trova che nel 2016 fare il concorso in Miss Italia sa come fare il mercato delle schiave. Non è esattamente il mercato delle schiave, ma è qualcosa che ha un suo profondo indice di degradazione. Mentre da una parte sembriamo così attenti ad ogni sfumatura nell'osservanza alla dignità delle donne, metterle comunque in fila, in passerella, comunque con la telecamera che finge di essere ingenua ma gli inquadra il foldoschiena quando salgono le scale, significa sì veramente metterle a un mercato. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se comincia a aiutarmi lei, visto che gli uomini sono poco loquaci, dicono banalità. Secondo lei, vediamo se è d'accordo con quello che dico. Piacere di parlare con lei, Gianluca Nicoletti. Vediamo se è d'accordo con la premessa e se mi dà un contributo. Io dico, quella ragazza, che comunque è una bella ragazza, comunque una modella, non è rappresentativa di tutte le donne che in realtà possono sentirsi in qualche maniera frustrate, perché vedono nei giornali, nella televisione, nella moda, nello star system, donne totalmente diverse da loro. Se dovessimo elencare le donne come categorie, mi ripugna l'idea, ma però questo è che vuole Miss Italia, cosa aggiungerebbe alla bellezza abbondante e la bellezza, diciamo, dotata di tutte le misure giuste secondo il canone che finora è stato quello vincente a Miss Italia? Qual è il tipo di donna che aggiungerebbe lei? Le ragazze che vedo la mattina che aspettano l'autobus o che le incontro nell'autobus che vanno a lavorare, molto carine, curate nei dettagli, proprio per me tutti miss. Beh, sono tutte miss, è troppa grazia. Vediamo di capire, lei dice le ragazze vedo carine e curate, quelle non particolarmente tirate e acchittate da Miss Italia, cioè non con gli zigomi belli gonfi, non con le labbra belle carnose, quindi la media ragazza, la media studentessa, ecco, la media studentessa. Giovane impiegata. Diciamo. Giovane impiegata, perfetto, la categoria della giovane impiegata, vedi che ci stiamo arrivando lentamente. Simona, vediamo se riusciamo a andare. Buongiorno. Avanti. Buongiorno. Cosa aggiungerebbe? Le bassette, le ecco. Bassette di statura, perché non è giusto che possano partecipare solo le ragazze alte, curvi o magre, ma anche le bassette. Allora vediamo un po', allora, Maria Teresa dice la media impiegata e mi sta bene, la media impiegata significa la donna che non ha tempo di perdere tempo in palestra, di andare eccessivamente dall'estetista, di fare dei ritocchi nella faccia, non c'ha l'extension, insomma è una donna piacevole, sono le nostre colleghe, le nostre compagne di vita, le nostre compagne di bisboccia, di bagordi, di aperitivi, di passeggiate, le donne che guardano Miss Italia dicono ma io non sarò mai lì, quindi è la media impiegata. Lei dice invece la donna, diciamo, di statura non eccelsa. Lei bassetta cosa intende? Non so, diciamo anche il 1,60 m, insomma, un'altezza, mentre normalmente vedi tutte stangone, ecco. Ora non so quale sia, sinceramente non l'ho neanche guardato Miss Italia, ma diciamo la seconda minima, arrivata, ecco, era sul 1,80 m, ma anche la prima arrivata, ecco, era bella alta, sì. Diciamo che, ecco, ora le ragazze è vero che sono molto più alte rispetto, io ho 47 anni, quindi rispetto. Lei quant'è alta? Lei quant'è alta, Simona? 1,60 m, spaccati. Quindi però lei dice una cosa sacrosanta. Mi spiega perché devono essere rappresentate soltanto le donne in carne, le donne basse, magari totalmente, perfettamente proporzionate, non sono contemplate. Esatto. Quindi anche le basse. Allora, lasciamo la linea, ci interrompiamo per un istante. Abbiamo finora, e siamo sulla strada giusta, raggiunto l'obiettivo di avere due categorie in più per Facchinetti. Devono esserci anche le medie impiegate, quelle che non possono perdere tempo, denaro e impegno nell'acchittamento totale, e le bassette, quelle che non sono, che sono su 1,60 m, perché loro non devono sfilare. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Salve. Innanzitutto non credevo di poter arrivare fin qui e invece ci sono arrivata, quindi a nome di tutte le belle forme d'Italia spero che mi voterete. Grazie, scusate. Ciao a tutti, sono Paola Torrente, ho 22 anni e vengo da Angri in provincia di Salerno. Sono una studentessa universitaria. È chiaro che alla fine in finale doveva arrivare una Miss Carvi, se no era inutile che facesse tutta questa grande novità. È logico che poi nella finale erano due visioni del mondo contrastanti. Una rappresentava un po' il modello dell'ascoltatore con la bavetta, l'ha chiamato prima, le donne devono essere acchiappate, come se le donne fosse, ne so, deve avere degli oggetti per una miglior manutenzione, non lo so, non essere prese, non essere consistenti. È un'idea altrettanto retrograda di quanto è retrograda l'idea della Miss. Oppure altri che dicono che comunque, sì, messe vicino, in effetti è chiaro che l'occhio, se va a dare un canone di bellezza classico, ha vinto quella che giustamente era la vincitrice. Sentiamo qualche ascoltatrice, finalmente si stanno muovendo le donne, finora abbiamo avuto come nostra provocazione, aggiungiamo tutte le categorie possibili, visto che non soltanto allora le formose belle, però formose quando sono alte 1,80 m, facile essere formose quando una è alta 1,80 m, quando una è alta 1,60 m, è un pochino più difficile poi essere accettata come bella donna, perlomeno da chi considera soltanto l'aspetto banalmente estetico. Anna dalla Spezia, buongiorno. Ma io volevo dire che anche secondo me, io sono 1,60 m e non ho mai avuto problemi comunque a considerarmi accettabile. E il problema è che quelle donne che vedo a Miss Italia, quelle proprio magrissime, altissime, non rispecchiano secondo me la donna italiana, perché la donna italiana sicuramente è più formosa e anche un pochino più bassa del 1,80 m, quindi anche con un leggero difetto, come potrebbe essere, non so, un nasino un pochino più pronunciato, però una bella muscolatura, una bella ragazza, se è curvi va bene lo stesso, rappresenta l'Italia. Quindi però, io sono... Aggiunga, lei ha detto, lei vedi, una volta negli annunci di ragazze che o ragazzi che cercavano marito e moglie tramite gli elenchi che avevano nelle parrocchie c'è scritto un lieve difetto fisico. Allora, qual è il lieve difetto fisico secondo lei meriterebbe di essere contemplato come categoria di Miss Italia? La bassezza già è stata detta, diciamo l'altezza non è eccessiva. Ma sicuramente anche i nasi non proprio perfetti. Perfetto. Anche... La donna con il naso importante, la nasona, diciamolo così. Via. Allora, la nasona però sul suo viso magari ha un particolare. No, giustamente, che ha un naso, perché deve andarsi a fare una plastica? La nasona può partecipare alle categorie delle nasone. Anna da Brescia. Io volevo sottolineare una cosa. Che la bellezza italiana era già stata rappresentata nei nostri film degli anni 60, anni 70, anni 50. La bellezza italiana per me è quella. È quella che ci rappresenta la Claudia Cardinale, la Sofia Loren e tante altre brave attrici. Beh, però per me quella è la bellezza italiana. È un'immagine un po' vintage della bellezza. Sì. Sono donne che rappresentavano un'epoca. È difficile trovarne di uguali oggi. Sono altri tipi di donne. però consideriamo che la Miss Italia di quest'anno rappresenta un po' la nostra fisicità di quelle, di quell'epoca. Sì, ma se lei guarda le immagini, le foto glamour fatte anche semplicemente 50 anni prima, erano ancora diverse le donne. Quelle erano modelle, erano delle pin-up italiane belle, abbondanti, uscivamo dalla guerra, eravamo tutti contenti di vedere finalmente qualcuno cominciava a rimpolparsi dopo anni di stringere la cinghia. Ma le pin-up di inizio Novecento erano diverse, erano donne cilindriche oppure avevano cellulite. Esattamente, erano considerate bellissime, appetibili. Se guarda le foto, bravo, i nudi d'autore e di non autore, le foto che usano i nostri nonni per attizzarsi, erano donne che oggi non sarebbero considerate. Quindi vogliamo aggiungere una categoria, quelle senza punto vita, perché sennò sembra che veramente una deve essere per forza anfra. Le donne senza punto vita le aggiungiamo? Quelle un pochino con un po' di pancia, ecco. Sì, perché è il vero primo, il primo problema è quello, non ne parliamo. Le donne hanno un po' di, molte volte un po' di rotondità di ventre, visto che vogliamo toccare fino in fondo questa scelleratezza di considerare le donne come una categoria da esporre. Benissimo, tocchiamo il fondo, aggiungiamo allora oltre alle nasone anche le donne con la pancia. Sabina, buongiorno. Sabrina, scusa, Sabrina. Ciao, buongiorno a tutti. Ma io volevo dire solo questa cosa. Allora, io sono, premesso che sono alto 1,60 m politico, sono magra, ho gli occhi azzurri, quindi so che non posso partecipare a Miss Italia. Non me ne faccio un problema, nel senso che so di non poterlo fare, quindi non ci vado. Mi piace guardarlo, quest'anno vabbè non l'ho guardato, però in generale mi piace come concorso. La bellezza è soggettiva, se parli con qualsiasi uomo ti dirà che gli piace una certa categoria di donne, magre, più grasse, più alte, più basse, è soggettivo, quindi non si può dare una categoria ad una bellezza femminile. Sì, Sabrina, Sabrina, è tanto sì, vero che ho fatto questa missione proprio per dimostrarlo esattamente, che è ridicolo, è una montatura propagandistico-pubblicitaria per ridare un po' di formaldeide al cadavere di Miss Italia, cioè abbiamo aggiunto quelle grassottelle. Quindi se vogliamo noi esasperare uno stereotipo che a me fa orrore, devo dire, delle donne in passerella, abbiamo aggiunto le impiegate, le bassette, le nasone, le panzone, lei cosa aggiungerebbe? Io aggiungerei la semplicità, semplicemente, ecco, nel senso la persona semplice, la donna semplice. Quella che nessuno se la nota, le donne che non si notano, mettiamo così? Le donne semplici, sì. Le donne che non si notano, benissimo, quelle che non si notano. Posso aggiungere solo una cosa, se io dovessi partecipare a Miss Italia nella categoria bassezza la prenderei come insulto, perché la prenderei come una cosa disprezzativa, perché io è vero sono bassa, non vado a Miss Italia, punto, non è un problema, e tra l'altro la pubblicità ci fa vedere cose diverse. Quindi, ma allora scusi, allora dà ragione all'articolista del giornale che dice in realtà è una presa in giro, perché dovrebbero sentirlo come insulto tutte quelle, diciamo, in abbondanza essere considerate come una categoria, come se fosse un grande zoo in cui c'è anche la gabbia delle donne abbondanti. Perché sto esasperando. Ma come di quelle magre. Ma io sto esasperando un principio per farne capire la profonda ipocrisia. Secondo me non è un salto avanti, è che aggiunge al serraglio altre categorie. Vogliamo essere corretti fino in fondo? Allora tutte le categorie. Allora benissimo, anche le basse, anche le nasone, anche le panzone. Sabina, ha parlato Sabina. Federica, buongiorno. Federica è caduta. Oggi abbiamo una caducità di telefonate. Giuseppe. Ah, buongiorno. Che aggiungerebbe lei dal punto di vista dell'uomo? Io aggiungerei le casalinghe, forse ci mancano. Abbiamo parlato di impiegate, di studentesse. Anche questa è una categoria. Un sms è arrivato anche dell'opera. Ecco, la casalinga però come la definirebbe? Perché bisogna capire, va rappresentata. Noi abbiamo avuto... No, a parte il fatto estetico, una donna sicura di sé, diciamo, che ha un ruolo che, diciamo, di sicurezza per la famiglia, diciamo, per il marito, per i figli. Le mamme di famiglia sono quelle che lievemente, che non sempre possono... stare attente ai dettami della moda, che hanno le mani un po' rovinate dai tanti lavori che devono comunque fare. La media però donna hanno una loro dignità, ogni essere umano vengono anche riconosciuti ultimamente i diritti, cioè si parla di un ruolo importante, diciamo. Allora riguarda... poi vede che sta venendo fuori. Se noi volessimo rappresentare a tutte le donne d'Italia l'idea di poter essere comunque incluse in una grande modello della donna media italiana, non soltanto quelle, anche le casalinghe, giustamente, ci vorrebbe anche la passerella alle casalinghe. Quindi non voglio sfilare, non mi interessa, ma se per assurdo facciamo passare il principio che qualcosa di democratico, di aperto, è un passo avanti di civiltà, abbiamo già elencato una decina di categorie di donne, comunque avrebbero dignità, se vogliamo dire che è il concorso che rappresenta la bellezza italiana. Federica, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, il discorso su ampliare le categorie è molto bello, ma secondo me è pressoché impossibile. Ora come ora, Miss Italia è una vetrina. La bellezza ora, quella che si vede sui giornali, i manichini nei negozi, quello che cercano di venderci è la taglia 38, purtroppo. Però scusi, sta cambiando un po' il trend, visto che se cominciano a venire le donne taglia 46 in passerella, vuol dire che stanno cominciando... Ammesso ci sia dietro un grande mercato, non voglio adesso fare il complottista a tutti gli effetti. Sì. Se la 46 comincia a diventare, che finora le trovavi soltanto nei negozi. Ma ci vorranno decenni, secondo me, la taglia 46 ora si fa sfilare perché così c'è la colonnetta sul giornale, si fa vedere a Miss Italia così, infatti ne stiamo parlando, ma non è quello su cui gli stilisti lavorano. La showgirl che vediamo in televisione, le ragazze vogliono essere una 38, non scusi Federica, io sono molto ignorante, la taglia 46 si trova normalmente nei negozi di abbigliamento femminile? Ma è il limite, non tutti i negozi li hanno, alcuni arrivano addirittura solo fino alla 44, cioè da andare nei negozi taglie forti, quei negozi che ho scritto taglie forti. Sì, non è piacevole poi per una donna, capisce, andare a dire però... non posso trovare i vestiti che voglio dove voglio. Però se una è alta più di 1,80 m, logicamente meno. La ragazza che è andata a Miss Italia era bellissima, secondo me, però come dice lei, come hanno detto prima le altre ascoltatrici, 1,80 m, una quinta è una cosa, su 1,60 m è un'altra. Cioè è un io le donne vedere. Che conosco e che amo e che frequento, che si sentono lievemente sovrappeso, beh, sono un'altra cosa, onestamente sono un'altra cosa, hanno un sovrappeso ma non è così distribuito secondo un principio aureo pitagoreo in cui hanno una vita da vespa, dei fianchi rotondi che sembrano disegnati con il compasso e un seno che sta su da solo anche se è quinta di reggiseno, onestamente, o sbaglio? Secondo me sì, sono comunque non sono come la ragazza che ha sfilato la curvy a Miss Italia, non sono ragazze che si vedono per strada comunemente, cioè, era comunque ben proporzionata, ma la media, la persona normale come me, come le altre ascoltatrici, 1,60 m, chi un po' sederone, chi ha meno seno, insomma non siamo quello su cui... Quello che diceva la mia collega stamattina, dice io esatto. sono curvy dalla vita in giù, ma la vita in su sono piatta, e allora che devo fare? Allora... Gli vestiti sono fatti per degli appendini, delle donne su cui sta bene qualsiasi cosa perché non hanno forme. Vabbè, comunque questa è una modella, non dimentichiamo, è una donna che appartiene alla categoria delle modelle, è una modella che rappresenta un modello di donna che mette vestiti in una certa maniera per avere... L'idea che anche lei sia rappresentata da qualcuna che entra nello Star System deve avere questa ragazzona fantastica. Però da qui che tutte le donne che hanno un peso non in linea con quello che è un canone di assoluta magrezza le possano sentirsi rappresentate da lei, secondo me ce ne passa. Ci fermiamo un istante, continuate con le categorie, tra poco. Melog, cronache meridiane. 800240024 via sms, mi stanno arrivando altri suggerimenti per le categorie. Spiego se ci fosse mai bisogno di spiegare, molte volte l'ironia è la cosa più difficile da percepire subito. Stiamo provocando, è chiaro che non vorremmo mai che gli esseri umani fossero definiti in categorie, ma visto che questa operazione, che passa come un'operazione culturalmente avanzata, di aver messo le modelle curvy in Miss Italia, ha un fondamentale senso discriminatorio totale, perché viene messa una donna formosa che non rappresenta comunque le donne che si sentono in minoranza degli sguardi o dell'attenzione perché hanno qualche chilo in più. Perché? Perché è bellissima, è alta. Allora, se vogliamo rappresentare veramente tutte, se veramente vuole essere un esempio di democrazia, questa sorta di orripilante passerella di donne che si espongono per rappresentare un modello, ma lo fanno bene, sono modelle, aspiranti attrici, aspiranti donne di spettacolo, e quella è la maniera per essere viste. Se una donna gioca il suo futuro sulla bellezza, è lecito, non c'è nulla di strano, non è detto che tutti devono giocare sull'intelligenza, sulla perspicacia, su altre donne. Ah, sono belle, dici, io mi gioco la bellezza, voglio fare l'attrice, la presentatrice, la modella, e quindi si fanno vedere, va bene. Ma allora non dite che devono essere rappresentate tutte le donne, anche quelle che rappresentano la minoranza, perché se non essere rappresentate tutte, esattamente quelle che dicono i nostri ascoltatori. Scrive un sms, Ulisse, anche le sederone, vogliamo le culone, la categoria delle culone. Non sono esattamente come questa, che è perfettamente proporzionata nella sua altezza, quelle che hanno una sproporzione, le donne con il sedere grande. Qualcun altro dice voglia anche la categoria delle rifatte. Le rifatte non fa categoria a sé, perché anche nelle Miss che abbiamo visto sfilare l'altra sera, ce n'erano certe che palesemente avevano zigomi e labbra che non appartenevano comunque al pennello di madre natura, perché allora devono stare insieme a quelle che in realtà non hanno ritocchi in faccia. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Io penso che vorrei una rivoluzione in questa gara. La mia rivoluzione sarebbe cercare l'armonia per quanto riguarda l'estetica, praticamente l'armonia. E l'armonia vuol dire, non vuol dire misure, non vuol dire, vuol dire l'armonia, e valutare la personalità, il carisma, il fascino. Ma come fa a farlo in come fa a farlo in televisione, che tutto al più sono le domande che gli fa Paragone sulla politica internazionale? Le interviste ci sono, le ragazze quando vengono scelte, cioè invece di mettere a fare la giuria un certo tipo di persone, ne mettiamo altre. Sì, ma l'aspetto più debole, ragazze che arrivano a 20 anni, che hanno coltivato la bellezza, il saper sfilare, la forma fisica, la tonicità dei glutei, è abbastanza difficile. Sì, potrebbe anche essere che poi in realtà la loro eccellenza sia nel carisma, nel sapersi porre, nella grazia del loro pensiero. Questo darebbe una dignità maggiore alla, sì, alla mostra, se fosse e così. Anche la giuria potrebbe essere un po' ma allora non è un concorso di bellezza, allora non è un concorso di bellezza. Non dovrebbe essere, ma la bellezza è tutto, la bellezza è anche il fascino, la bellezza è anche la personalità, ma se è soggettivo, lo sguardo. Ma se è soggettivo, guarda, a me potrebbe piacere anche, che ne so, la signora novantenne che vende i fiori all'angolo della strada, potrei innamorarmi di lei, è soggettivo. Allora tutto l'universo dovrebbe essere rappresentato. No, ma questa... perché, cioè, per quale motivo non si devono inserire soltanto le misure e le cose estetiche? Perché missitale, cioè, è qualcosa che me... appartiene al passato. Un'umanità civilizzata crescere. Non dovrebbe fare le passerelle, vuol dire facciamolo, le donne che facciamolo crescere. Facciamolo crescere, e così le donne potrebbero anche leggere un po' di libri e perdere meno tempo in cose stupide, pensando che possono gareggiare ed essere non è fondamentale. Uno può leggere libri, ma uno può avere comunque una profondità d'animo anche semplicemente avendo vissuto la vita. Non giochiamo poi il fatto intellettuali contro belle. Io trovo che le doti dell'intelletto hanno la stessa dignità delle doti fisiche. Una donna bella ha la stessa dignità di una donna intelligentissima e colta. Però le due sono una. Se facciamo il concorso delle belle, allora lasciamo perdere le grassottelle, soltanto quelle belle che secondo il canone estetico corrente sono considerate belle. Siccome cambia, è mutevole, è fluttuante negli anni. E allora parliamo di armonia e non di misure. Armonia, perché può essere molto armoniosa una ragazza piccola che si sa muovere, sì, che ha delle misure. Parliamo di armonia invece di misure. Però anche, cioè, se lei capisce, metro, sì, però capisce che via diventa... il metro, buttiamo via la bilancia e parliamo di armonia e movimento e però i criteri matematici permettono di avere comunque una facilità di l'armonia è quello che piace a Facchinetti magari non è considerato armonioso da me o viceversa. Ornella, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque, io sto sentendo la trasmissione e certi interventi mi fanno ridere, nel senso che il signore che dice le casalinghe, ma non credo che siano escluse le casalinghe da questa trasmissione, da questo avvenimento. L'unica cosa che io dico, secondo me, io ho visto il backstage di questa trasmissione, non la vedo mai, è una cosa che non mi interessa. Facendo zapping mi è capitato di vederle e ho visto delle ragazze, direi... quasi bruttarelle, per cui cioè prima del trucco, direi, prima del trucco dice lei prima bravo, del... esatto, perché io ho una figlia che è graziosa, quando si trucca è bellissima. Mi ricordo Madonna, io ho 74 anni, agli esordi Madonna era veramente brutta. Poi con i trucchi, le plastiche, cioè, è diventata un'altra persona. Cioè, per me la bellezza italiana è la bellezza vera, non quella con il trucco, perché allora tutte diventano belle. Eh sì, però la televisione le capisce, come, è come fosse il teatro, è il regno dell'artificio. Mi rendo conto, però è una bellezza artificiale, non è più la bellezza vera. Cioè, ci saranno, io vedo Ornella, Ornella, in conclusione, la televisione è il regno dell'artificiale. Non può essere considerato qualcosa di reale, di corrispondente a un canone di bellezza o di armonia nel mondo concreto, quello che in realtà eccelle in televisione. Sono due mondi diversi, due mondi che possono sembrare comunicanti, ma in realtà è una grande e enorme mistificazione il fatto che Miss Italia proclami la più bella d'Italia. Quello volevo far capire questa mattina e spero di esserci, forse in parte riuscito.